Occasione di questa conversazione erano stati alcuni giorni che ero andato a passare a Balbec, dove lo stesso Saint-Loup, che usufruiva d'un lungo permesso, era venuto con la moglie, dalla quale, in quella prima fase, non s'allontanava mai d'un solo passo. Avevo notato con stupore come su Robert si facesse ancora sentire l'influsso di Rachel. Solo un giovane marito che abbia avuto per molto tempo un amante sa come togliere il mantello dalle spalle della moglie prima d'entrare in un ristorante, prestarle le attenzioni dovute. Durante quella relazione ha imparato ciò che un buon marito deve sapere. Non lontano da lui, a un tavolo vicino al mio, Bloch, circondato da pretenziosi giovani universitari, sfoggiava modi falsamente disinvolti e gridava a gran voce a uno dei suoi amici, passandogli la carta con un gesto ostentato che rovesciò due caraffe d'acqua. «No, no, carissimo, ordinate voi! In vita mia non ho mai saputo combinare un menù, mai saputo ordinare!» ripeté con orgoglio poco sincero. E mischiando letteratura e golosità, si disse subito a favore d'una bottiglia di champagne che gli piaceva vedere, in modo affatto simbolico, ornare una conversazione. Saint-Loup, lui, sapeva ordinare. Era seduto accanto a Gilbert, già incinta. Non avrebbe smesso in seguito di farle fare figli, così come dormiva accanto a lei in albergo, nel loro letto comune. Non parlava che a sua moglie. Per lui il resto dell'albergo era come se non esistesse, ma nell'istante in cui un cameriere, prendendo un'ordinazione, gli era vicinissimo, alzava rapidamente i suoi occhi chiari e gli gettava uno sguardo che non durava più di 2 secondi, ma nella sua limpida chiaroveggenza sembrava testimoniare d'un ordine di curiosità e di ricerche affatto diverse da quello che avrebbe potuto animare un qualsiasi cliente intento a guardare, magari a lungo, un fattorino o un impiegato per trarne osservazioni umoristiche o d'altro tipo da comunicare ai propri amici. Quel piccolo sguardo breve, disinteressato, testimoniante che il cameriere gli interessava per se stesso, rivelava a chi l'avesse osservato che nella vita di quell'eccellente marito, di quell'amante un tempo appassionato di Rachel, c'era un altro piano che era per lui infinitamente più interessante di quello su cui si muoveva per dovere. Ma non lo si vedeva che in quello. Già i suoi occhi erano tornati su Gilbert, che non aveva visto niente. Le presentava al volo un amico e andava a passeggiare con lei. Ebbene, Aimé mi parlò allora di un tempo ben più antico, quello in cui proprio lì, a Balbec, avevo conosciuto Saint-Loup attraverso Madame de Villeparisis. «Ma sì, signore», mi disse, «è arcinoto, è da molto tempo che lo so». Il primo anno che il signore era a Balbec, il signor Marchese si chiuse in camera assieme al ragazzo dell'ascensore col pretesto di sviluppare delle fotografie della signora, la nonna del signore. Il ragazzo voleva fare una storia, abbiamo sudato 7 camicie per mettere tutto a tacere. E poi, signore, ecco, il signore certamente ricorda il giorno che è venuto a far colazione al ristorante col signor Marchese di Saint-Loup e la sua amante, che il signor Marchese usava come paravento. Il signore certamente ricorda che il signor Marchese se ne andò col pretesto di una crisi di collera. Non voglio certo dire che la signora avesse ragione, gliene faceva di tutti i colori quella, ma quel giorno nessuno mi toglierà dalla testa che la collera del signor Marchese era finta e che aveva bisogno d'allontanare il signore e la signora. Almeno per quel giorno so per certo che, se non mentiva scientemente, Aimé si sbagliava in tutto e per tutto. Ricordavo troppo bene lo stato in cui era Robert, lo schiaffo che aveva dato al giornalista. E per Balbec, d'altronde, era lo stesso. O aveva mentito il ragazzo dell'ascensore, o mentiva Aimé. Così, almeno, credetti. Una certezza non potevo averla. Non si vede mai che un lato delle cose. E se non mi avesse tanto rattristato, avrei trovato una certa bellezza nel fatto che, mentre a me la commissione affidata al Lift aveva dato modo di far arrivare una lettera a Robert e di avere la sua risposta, a lui lo aveva dato di conoscere qualcuno che gli era piaciuto. Le cose, in effetti, sono perlomeno doppie. Sull'atto più insignificante che compiamo, un altro uomo innesta una serie di atti completamente diversi. Comunque, l'avventura di Saint-Loup e del ragazzo dell'ascensore, se ci fu, non mi sembrava contenuta nel banale invio della mia lettera più di quanto uno che di Wagner conoscesse soltanto il duetto del Lohengrin potrebbe prevedere il preludio del Tristano. Per gli uomini, certo, le cose non offrono che un numero ristretto dei loro innumerevoli attributi, a causa della povertà dei loro sensi. Esse sono colorate perché noi abbiamo degli occhi. Quanti altri epiteti non meriterebbero se di sensi ne avessimo centinaia? Ma questo aspetto diverso che potrebbero avere ci è reso più facilmente comprensibile da ciò che rappresenta nella vita un avvenimento anche minimo di cui conosciamo una parte, che crediamo il tutto e che un altro guarda come da una finestra aperta sull'altro lato della casa e che dà su un'altra vista. Nel caso che Aimé non si fosse sbagliato, forse il rossore di Saint-Loup quando Bloch gli aveva parlato del lift non sarebbe stato da attribuire soltanto al fatto che questi pronunciava lift. Ma io ero convinto che l'evoluzione fisiologica di Saint-Loup non fosse cominciata in quel periodo e che allora egli amasse ancora unicamente le donne. Più che da qualsiasi altro segno potei dedurlo retrospettivamente dall'amicizia che Saint-Loup m'aveva testimoniata a Balbec. Solo finché amò le donne fu veramente capace d'amicizia. Dopo, almeno per qualche tempo, agli uomini che non lo interessavano direttamente manifestava un'indifferenza in parte credo sincera, perché era diventato molto brusco, ma che forse esagerava per far credere che pensava unicamente alle donne. Eppure ricordo che un giorno che passavo da Doncières per andare a pranzo dai Verdurin, Robert, dopo aver guardato in modo un po' prolungato Charlie, mi aveva detto: «È strano, ha qualcosa di Rachel quel ragazzo, non ti sembra? Trovo che abbiano qualcosa di identico, non che la cosa comunque possa interessarmi». E tuttavia i suoi occhi erano rimasti dopo lungamente perduti all'orizzonte, come quando si pensa, prima di rimettersi a una partita a carte o d'uscire per pranzo, a uno di quei viaggi lontani di cui, pur pensando che non li faremo mai, abbiamo provato per un istante la nostalgia. Ma se Robert trovava qualcosa di Rachel in Charlie, Gilbert, per piacere al marito, cercava d'avere qualcosa di Rachel, si metteva come lei nei capelli dei nastri di seta rosso papavero, o rosa o gialla, si pettinava allo stesso modo, perché credeva che il marito l'amasse ancora e ne era gelosa. Che l'amore di Robert fosse stato a tratti sui confini che separano l'amore d'un uomo per una donna dall'amore d'un uomo per un uomo era possibile. In ogni caso, il ricordo di Rachel non svolgeva più a questo proposito che un ruolo estetico. Non è nemmeno probabile che avrebbe potuto svolgerne altri. Un giorno Robert le aveva chiesto di vestirsi da uomo, di lasciar pendere una lunga ciocca di capelli, ma si era accontentato di guardarla insoddisfatto. Non per questo le era rimasto meno legato, e le passava scrupolosamente, ma senza piacere, la rendita enorme che le aveva promessa e che non le impedì poi d'agire nei suoi confronti, nel peggiore dei modi. Di questa generosità verso Rachel Gilbert non avrebbe sofferto se avesse saputo che era solo l'adempimento rassegnato ad una promessa cui non corrispondeva più alcun amore. Ma era amore, invece, ciò che lui fingeva di provare per Rachel. Gli omosessuali sarebbero i migliori mariti del mondo se non recitassero la commedia ad amare le donne. Gilbert, d'altronde, non si lagnava. Era per aver creduto Robert amato, così lungamente amato da Rachel, che lo aveva desiderato, che aveva rinunciato per lui a partiti migliori. Le sembrava che Robert, sposandola, le facesse una sorta di concessione. E i primi tempi, in effetti, egli fece fra le due donne, pur tanto ineguali per fascino e per bellezza, dei paragoni che non furono a vantaggio della deliziosa Gilbert. Ma questa salì poi nella stima del marito, mentre Rachel scendeva a vista d'occhio. Un'altra persona si smentì. Madame Swann. Se per Gilbert, già prima del matrimonio, Robert era stato circondato dalla doppia aureola creatagli da un lato dalla sua vita con Rachel, perpetuamente denunciata dalle lamentazioni di Madame de Marsant, dall'altro dal prestigio che i Guermont avevano sempre avuto per suo padre e che lei aveva ereditato, Madame de Forcheville avrebbe preferito invece un matrimonio più clamoroso, forse principesco. C'era qualche famiglia reale povera che avrebbe accettato il denaro, rivelatosi d'altronde alquanto inferiore agli 80 milioni promessi, ripulito com'era dal nome Forcheville, e un genero meno svalutato da una vita trascorsa lontano dal gran mondo. Non aveva potuto averla meglio sulla volontà di Gilbert, s'era amaramente lamentata con tutti, parlava male del genero. Un bel giorno tutto era cambiato. Il genero era diventato un angelo, non lo si prendeva più in giro che di nascosto. Il fatto è che l'età aveva lasciato a Madame Swann, diventata Madame de Forcheville, l'inclinazione di sempre a farsi mantenere, ma, per diserzione degli ammiratori, gliene aveva tolto i mezzi. Ogni giorno avrebbe voluto una nuova collana, un nuovo vestito trapunto di diamanti, un'automobile più lussuosa, ma il suo patrimonio era scarso. Forcheville s'era mangiato quasi tutto e, a quale ascendente israelita obbediva in questo Gilbert, aveva una figlia adorabile, ma spaventosamente avara, che lesinava il denaro al marito e tanto più, naturalmente, alla madre. Ora, il protettore Odette l'aveva fiutato e poi trovato in Robert. Che non fosse più nella prima giovinezza aveva poca importanza agli occhi d'un genero cui non piacevano le donne. Tutto ciò che Robert chiedeva alla suocera era d'appianare questa o quella difficoltà fra lui e Gilbert, d'ottenere che gli lasciasse fare un viaggio con Morel. Se Odette si dava da fare, subito era ricompensata da un magnifico rubino. Per questo era necessario che Gilbert fosse più generosa nei confronti del marito. Odette lo predicava con tanto più calore in quanto lei stessa beneficiava di quella generosità. Così, grazie a Robert, alla soglia della cinquantina, alcuni dicevano della sessantina, poteva abbagliare ogni tavola a cui pranzava, ogni serata a cui compariva con un lusso inaudito, senza bisogno d'avere come un tempo un amico che adesso non avrebbe più abboccato, cioè scucito. Era dunque entrata per sempre, pareva, nel periodo della castità finale e non era mai stata tanto elegante.